guardo i miei occhi, si perdono in un incubo. Ho paura, mi sento come prigioniero. Ti chiedo risposte che mai non ricevo, domande che spezzano il cuore. L'uomo che crea catene e dolore, edifica mura e recinti, perché la natura non li ha mai respinti, perché non mi mette le ali, oppure li fa diventare normali. Se devono essere uguali, allora perché non li ha fatti più mai? Allora perché non ci ha resi mortali? Io rivoglio la mia libertà, la mia vita voglio viverla, voglio solo la tranquillità, che non debba chiederla. Io rivoglio la mia libertà, chiedo solo questo. Stino a seguire chiunque mi faccia capire, chiedendo se esiste davvero, risposte che aspetto e che mai non ricevo, domande che spezzano il cuore, a Dio che ha creato l'amore, che abbatte le mura e i confini, levando gli ostacoli ai nostri cammini. Io rivoglio la mia libertà, la mia vita voglio.